c'è Gigi D'Agostino, fermati, ascolta. Sabato pomeriggio nel cammino di Gigi D'Agostino. Vai su www.gigidag.it. www.radiogiacomo.com e fai la votazione. proprio. Dalla classifica dei brani più votati sul sito www.gigidag.com. Numero 13. Tarantella dell'orso. Uomo suono. Cammino del Gigi d'Agostino te caccia via lo spirito maligno. Tanto tempo, mi piace tanto tempo,

D'Agostino, stai sicuro. Show di Gigi D'Agostino dal vivo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino e Luca Noise. Questa sera, sabato 21 gennaio 2006, ore 22. Discoteca Roncaccio, via Milano 19. Località Bizzarone, Como. We'll be right back. cosa. Non c'è cosa, non c'è luogo che non sappia di noi due. Bene e male al nostro amore con le altre.

È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Where are you? I'm here in the rain now. Hell on you. I wanna take a break now. I was fooled again. Go, go, go. Your love is just a bubble. You must know you're gonna be in trouble. You screwed up my plan. I will tell my story on TV. I'll expose your name. Eins, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Oh, oh, eins, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Eins, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Oh, oh, eins, zwei, drei, schicki, schicki, Schweine. Lo sbaglio, dottor Dario.